Benissimo, allora passiamo alla discussione, approfitterei per salutare allora anche Cesa, credo che sia ora che tu te ne vai. Quindi... Grazie molto, io però ti saluto. Ecco, allora la discussione la facciamo come ieri a Raggiera, cioè sulle quattro relazioni, però poi ho visto che ieri molto semplicemente poi c'è stata un'autoregolamentazione, insomma, per cui tutto è andato molto bene. Allora io darei proprio così, aprirei Cardini, Ernor. Beh, allora un attimo, intanto Cardini, tutti interverranno probabilmente. Allora facciamo una lista. Presidente. Allora facciamo una lista. Benissimo, siamo in tanti. Forse qui facciamo una relazione alla volta, allora, perché tutti no, credo che vogliono intervenire su relazioni diverse. Ah no, mi piace tutto così. Allora, Cardini, poi Schnur, intanto. E poi dopo, qui chi c'era? Raffaella, cioè no, Gherardi, Gozzi, poi c'è De Santis, Sattler, Corni, Meriggi, Sordi, Pombeni, Mazzolini. Dovremmo chiedere chi No. anche ieri è stato così, tutti c'è anche apposta, come si dice. E ancora chi non è stato? Io ho qui Cardini, Schnur, Gherardi, Gozzi, De Santis, Sattler, Corni, Meriggi, Sordi, Pombeni, Mazzolini. Ok? La parola a Cardini. Io cercherò di essere abbastanza breve, vorrei fare due commenti alla relazione di Beneduce e a quella di Fioravanti. Per quanto riguarda Beneduce, ecco, è stato interessantissimo, avrei qualcosa da forse da aggiungere su Vito Cusumano, che fu uno dei fu uno dei momenti chiave della diffusione del germanesimo in Italia. Proprio quel libro che Beneduce ha citato del 1875, che veniva alcuni saggi usciti in precedenza, non solo dette il via a un dibattito sul ruolo dello Stato che è rimasto famoso, ma fu proprio un mezzo di introdurre delle dottrine economiche tedesche di prima mano, cosa che negli altri casi non è avvenuta. Ha citato i socialisti della cattedra, Scuola Storica Nazionale, ma gli altri erano personaggi come Luzzatti, che erano stati solo in Francia, di estrazione francese. Cusumano fu il primo che si recò effettivamente in Germania, tanto più che è considerato questo libro il primo esempio in cui le dottrine di Marx, sia pure insieme agli altri, facendo di erba un fascio, vengono nel nostro paese esaminate. Ora è vero che lì viene assimilato insieme ad altri personaggi, come se a Wagner, a Moller, che non aveva niente a che vedere, siamo d'accordo, però è il primo caso in cui effettivamente si discute di Marx. E Marx, dice lui, la scuola estremista è quella di Marx e Lassalle, e questo tra l'altro è significativo di quanto si avesse possibile pubblicare in quel momento, nel 1875 in Italia, testi di questo tipo, dove Marx viene trattato in modo molto, non dico scandaloso, ma in modo molto improponibile qualche anno successivo, è abbastanza significativo dello stato della cultura italiana per quello che riguarda questi aspetti in quel periodo. E comunque, ecco, Cusumano da questo punto di vista è estremamente significativo, proprio perché introduce, fa tutta una serie di discussioni sulle scuole economiche e giuridiche tedesche, che sono di primissima mano per l'Italia, e fa risalire direttamente, come ha detto anche Beneduce, il tema dell'economia tedesca ai filosofi tedeschi, a Kant. E non può, ecco, non mi sembra che ci sia però un nesso preciso tra questo discorso di Cusumano e quello che è invece il successivo approccio di Orlando, pure probabilmente c'è un nesso della scuola critica nazionale, c'è un nesso probabilmente, ma sì, c'è un nesso, ma ecco, non lo vedo, non l'ho chiaro, anzi mi piacerebbe se così. Questo era poi il problema di Boccardo e quello è un altro discorso che ora starò a esemplificare. Per quello che riguarda Fioravanti invece vorrei dire che essendo, è stato molto interessante il tuo discorso, ecco, il problema che vedo è il nesso tra Stato di diritto, appunto come diceva anche il titolo della sua relazione, tra Stato di diritto e Stato sociale. Ecco, mi sembra che nella scuola giuridica nazionale di Orlando, che pone questo problema dello Stato di diritto in modo formale, adeguandolo alla tradizione italiana, questo nesso non solo non viene posto, ma viene esplicitamente negato. Ecco, in particolarmente mi sembra che Orlando rinneghi quella che era in quel momento, rimane l'esempio dello Stato sociale, cioè il tipo di riforme attuate da Bismarck, che aveva uno stretto nesso tra l'altro con lo Stato di diritto e con la dottrina, ovviamente con la dottrina tedesca. Ecco, mi pare che Orlando si rifaccia invece a quello che chiama il liberalesimo economico e che respinga accetti questa parte della dottrina tedesca, che accetti tutto ma mutilando dello Stato sociale. Ecco, non so, non dico che questo non è venuto fuori dalla relazione, però mi sembra che si possa affermare questo e vorrei sapere se è giusto. Quindi lo Stato sociale va inquadrato e il rapporto tra Stato sociale e Stato di diritto a questo punto dove si inquadra per quello che riguarda l'Italia, mi chiedo se non c'è in Orlando. Questo io finisco. Herr Schnoor. Ich wollte zuerst etwas zum Referat von Herrn Dr. Tomasi sagen. Man könnte sagen, Preußen kommt wie Phönix aus der Asche wieder hoch, wenn ich ihm mitteile, dass über dasselbe Thema ich im vorigen Jahr in vier polnischen juristischen Fakultäten gesprochen habe, weil die Polen dieses Thema gesucht haben. Und das war von großer politische Aktualität, denn Polen hat eine Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeführt und sie haben mehr Interesse an dem Kneißchen Modell und dem preußischen Modell als an eine reine Verwaltungsgerichtsbarkeit als Rechtskontrolle der Verwaltung bekommen, weil das unter den politischen Umständen eher mit dem System kompatibel ist als eine reine Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie zum Beispiel jetzt in der Bundesrepublik mit drei Gerichtsinstanzen. Das ist eine seltsame Koinzidenz. Ich möchte aber deshalb auch darauf hinweisen, Herr Professor Skierer wird es gesehen haben, wenn Sie heute in den freien Teil von Berlin reisen, dann sollten Sie das Bundesverwaltungsgericht besuchen. Es ist in dem Gebäude von dem preußischen Oberverwaltungsgericht und bis in die Porträts werden Sie gesehen haben, die Bilder sind die Präsidenten, Persius und so weiter alle vorhanden und es ist, glaube ich, sinnvoll, dass das Bundesverwaltungsgericht nicht in Karlsruhe ist, sondern in Berlin seinen Sitz hat. Aber nun zu einigen Sachfragen, die betreffen die Referate von Herrn Fioravanti und von Herrn Papanini. Ich glaube, man muss den Terminus juristische Methode auch als einen polemischen Begriff sehen. Nicht als einen, nur als einen rechtstechnischen Begriff, als polemischen Begriff. Und er steht im Zusammenhang mit der Positivierung von Recht. Will damit eine Front machen gegen andere Positionen. 1880 brauchte man vom positiven Recht keine Front mehr zu machen gegen Naturrecht. Das war erledigt, jedenfalls zu der damaligen Zeit. Die Frontstellung der juristischen Methode nach 1871 war gegen Denkansätze wie Stein und Hermann Rösler, also Ideen mit Reform von Politik und Verwaltung als Instrument der Reform, und zwar in sozialer Hinsicht. Juristische Methode nach 1871 heißt, nur das geltende Recht, der große historische Kompromiss zwischen Monarchie und Bürgertum, ist jetzt die ganze Grundlage für die Interpretation vom geltenden Recht. Gar kein Zufall, dass der große Staatsrechtler des Positivismus nach 1871 von zu Hause aus Zivilrechtler war. Laband ist nicht gelernter Öffentlichrechtler gewesen. Und ich glaube, diese Frontstellung muss man sehen, wenn Otto Meyer so betont, juristische Methode, zumindest diesen polemisch-politischen Aspekt. Das ist auch, glaube ich, der hauptsächliche Grund, weshalb im Deutschen Reich Lorenz von Stein beiseite geschoben worden ist, weil seine Ideen mit dem positiven Recht nach 1871 nicht mehr in Einklang waren. In Italien und in Österreich-Ungarn, wo die Positivierung nicht so stark war, konnte Lorenz von Stein länger noch als Autor diskutiert werden. Während Stein nach 1871 für die Juristen in Deutschland ein mehr oder weniger toter Mann war, vielleicht ein Experte in Eisenbahnwesen oder so etwas. Aber für die juristische Diskussion war Stein erledigt. Und das waren, glaube ich, die Autoren Stein und Hermann Rösler, der sicher noch Interesse finden wird in ihren Forschungen, ein wichtiger Autor für die Geschichte der Verwaltungsrechtsdogmatik. Der ging dann nachher nach Japan und hat Japan maßgeblich geholfen, den Modernisierungsprozess von Japan in die Neuzeit. Ein Autor, der also eine so schlechte Position hatte mit seiner These vom sozialen Verwaltungsrecht, dass er sozusagen freiwillig emigriert. Hat dort aber Tolles angerichtet. Ist, ja, er hat Tolles angerichtet, bis dahin, dass heute deutsches Verwaltungsrecht für Japaner weniger eine Sache von komparativen Betrachtung ist, sondern als Grundlage von geltendem japanischen Verwaltungsrecht. Im vorigen Jahr ist ein deutscher Verwaltungsrechtler in einem ganz wichtigen Verwaltungsprozess in Japan als Experte für die Interpretation eingeladen worden. Das ist nicht für komparative Sachen, sondern für die Grundlagen vom geltenden Recht. So könnte man sagen, da auch Lorenz von Stein Japaner beraten hat, dass die Japaner bei dieser Modernisierung aggressiver waren als das Deutsche Reich nach 1871. Ich glaube, diese Bedeutung von juristischer Methode muss man sehen, denn an sich war für Juristen nicht nötig, auf juristische Methode hinzuweisen, weil man im Zivilrecht und im Strafrecht sehr wohl gewusst hat, was gemeint ist mit juristischer Methode. Etwas anderes ist die Frage, dass Stein eigene Methoden für Verwaltungsrecht entwickelt hat. Das interessiert mich im Moment etwas weniger. Ein zweiter Gesichtspunkt für juristische Methode im Verwaltungsrecht bei Meyer ist der Aspekt Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Vergessen Sie bitte nicht, dass Otto Meyer Advokat war von Beruf. Und infolgedessen denkt er als Advokat, mit welchen juristischen Topoi-spezifischen von Verwaltungsrecht kann man in Verwaltungsprozessen auftreten, um die Position zu verbessern. Und von daher erklärt sich der große Einfluss des französischen Verwaltungsrechts auf Otto Meyer. Otto Meyer hat in Straßburg und in Colmar gelebt, also Frankreich vor der Haustür. Und schon 1880 etwa hat sich das französische Verwaltungsrecht durch die Rechtsprechung des Conseil d'État entwickelt. Courriou hat das genannt, ein droit prétorien, also das ist ein Verwaltungsrecht im System das nicht durch positive Verwaltungsgesetze, durch Kodifikation festgelegt ist, sondern das durch die Rechtsprechung des Conseil d'État sich fixiert hat. Und an diesem französischen Rechtsprechungsverwaltungsrecht hat sich Otto Meyer sehr stark orientiert. Diese historische Perspektive, glaube ich, muss man sehen, um zu verstehen, woher der Einfluss von Meyer kommt. Und deshalb war es keine große Schwierigkeit, als Meyers Lehrbuch des Verwaltungsrechts übersetzt worden ist ins Französische, haben die Franzosen nicht sehr viel Schwierigkeiten gehabt, das zu verstehen. Seine Lehre von Recht der öffentlichen Sachen war in Deutschland kein Erfolg. Aber er hat den Domaine Public übernommen aus dem französischen Verwaltungsrecht. So sehr hat er sich festhalten wollen an dieser Position des französischen Verwaltungsrechts beim Aufbau des eigenen Verwaltungsrechts. Das zur Frage. Danke sehr. Gherardi. Io credo che in effetti sia vero quello che ha detto dell'interruzione del Vinci soprattutto. A proposito degli anni 80-90 in Italia, sull'idea di questo problema dell'amministrazione che è un problema quanto mai aperto, anche se ti chiedo se è vero pure l'obiettivo che questi hanno di fondo, ci sono diverse le idee che hanno delle soluzioni concrete ai problemi amministrativi. Sì, sì, sì. Però credo che in Italia una cosa sia ben acquisita, cioè che in ogni caso l'amministrazione costituisce la neutralizzazione per eccellenza del politico. Ecco, questa è una domanda. Altra cosa è invece il problema del decentramento, altrettanto importante. Sono d'accordo che cambia l'immagine che gli italiani hanno dell'Inghilterra, del ruolo che fanno giocare all'Inghilterra. E quindi muta anche il successo o meno che ha l'opera di Gnasi in questo senso. E muta verso gli anni 90, credo, in correlazione con un fenomeno importantissimo che si vive concretamente in Italia in quegli anni, il problema del socialismo municipale. E del vedere come il problema del decentramento possa giocare non solo un ruolo di stampo conservatore, come aveva giocato per tutti gli italiani fino a quel momento, ma anche un ruolo di segno diverso. E per questo, non so, penso alla recensione che Zanichelli fa nel 1901, dell'opera di Bertolini sull'autogoverno, sul governo locale inglese, contrapponendola proprio a quello di Fontenay, dicendo che oggi è molto più veritiera, aiuta molto di più a capire il governo locale inglese l'opera di Bertolini che non l'opera di Zanichelli. E gioca proprio tutto questo senso del fatto che il cosiddetto socialismo municipale trova anche in Inghilterra questa sua prima faro guida e che quindi va rivisto questa problematica in questo senso. E poi invece per quel che riguarda Fioravanti, lui ha parlato del problema del giuridico come continuo e del politico come perpetuale, no? Sono d'accordo in questo senso, però credo che ci sia il problema non soltanto del giuridico, ma che tutte le scienze vengano viste in quest'ottica nella fine Ottocento italiana. Cioè, non è soltanto il giuridico che viene visto come soluzione del conflittuale per antonomasia, ma anche le altre scienze, anche gli altri scienziati. Finito? Gozzi. Sì, dunque io volevo chiedere una domanda, fare una domanda a Fioravanti, ma soprattutto per mettere via su interventi del ecco, Fioravanti ha messo in luce con molta precisione questo maturare di una contraddizione tra Zelst Trecchi e Leistung Serrato. Benissimo, sono d'accordo. Ecco, mi chiedevo se un elemento utile per enucleare, cioè per mettere in luce in fondo questa contraddizione, questa irriducibilità tra appunto struttura, tra metodo giuridico e sostanza da una parte, elementi irriducibili di politicità, cioè elementi extra giuridici, non sia proprio nella graduale incorporamento, presenza di strutture di forme rappresentative all'interno della struttura amministrativa. E qui appunto mi leggo il discorso che faceva. Che faceva poi Beneduce, cioè in sostanza intendo dire l'analisi che fanno Santi Romano da una parte e Ferrari dall'altra del decentramento amministrativo è profondamente diversa, perché Santi Romano usa ancora la teorica del Reichstag, la teoria che usa per chiarire la struttura del decentramento amministrativo ancora la forma di diritti pubblici e obiettivi, mentre invece questo non si dà più nell'analisi di Ferrari, sicuramente riferendosi all'esperienza inglese, introduce invece l'elemento della rappresentanza come elemento qualificante per non attribuire alla struttura decentramento autarchico, cioè decentramento amministrativo come intende Santi Romano, le nuove forme amministrative, cioè per esempio le strutture amministrative dell'assicurazione sociale, del nuovo Stato sociale. Ecco, allora intendo dire che l'elemento rappresentanza come elemento di discontinuità, cioè di politicità all'interno, e questa era la domanda che coinvolge un po'. Grazie. Sor De Santis. Il mio intervento tanto ha senso in quanto si vuole presentare come un contributo in particolare alla ricerca di Pavanini su Stein. Sono stato citato recentemente, quindi mi sento chiamato un po' in causa. Come prima cosa volevo dire qualcosa sul problema del significato di naturale. Sì, io mi sono soffermato su questo punto nell'interpretazione di Stein, però il concetto di naturale in Stein non ha una... non vedo Pavanini. È lì dietro, dai. Non ha un significato naturalmente immediatamente naturale, perché anzi Stein vede una dicotomia iniziale, al fondo del suo pensiero, tra la natura in quanto tale e la Gemeinschaft. La società è l'elemento naturale della Gemeinschaft ed è naturale in quanto rappresenta proprio la non libertà nella Gemeinschaft. Quindi potremmo dire che una seconda natura, forse anche certamente, ma non tanto nel senso di, in cui lo troviamo nella filosofia del diritto di Hegel, cioè del mondo del diritto come un mondo della seconda natura, lo spirito oggettivo, nel senso che appunto l'individuo che vi entra dentro lo trova già come istituzioni che fanno parte del suo mondo, ma forse più come quella seconda natura che noi troviamo nella società civile, cioè come il luogo del conflitto che l'individuo non sceglie, ma in cui è immesso immediatamente. Per quanto concerne invece il punto più delicato della relazione di Pavanini, è un po' il problema della per fatto. Qui io direi che prima cosa la per fatto non riflette il conflitto, ma la struttura del conflitto. Vale a dire, e qui direi che Stein è pienamente hegeliano, Hegel lo dice sempre, la Costituzione non è nient'altro che l'emergere a livello dello Stato della composizione della società civile, ma non in quanto conflittuale, altrimenti non si spiegherebbe perché poi Hegel ne parli nella sezione dedicata allo Stato, non in quella dedicata alla società civile, essendo la società civile una determinazione interna al concetto di Stato. In questo senso direi che lo usa anche Stein, vale a dire la Verfassung è la forma della società, ma non si riproduce in questa forma naturalmente il conflitto che invece caratterizza la società in quanto tale e l'emergere della composizione sociale a livello della personalità Stato. E a questo proposito l'altro punto importante mi sembra che il concetto che Stein usa di società è come il concetto hegeliano di società civile non è un concetto astorico, ma tutt'altro è un concetto storicamente determinato all'interno di un'evoluzione specifica che ne determina il tipo a paradigma. Il tipo che si determina come paradigma della Gesellschaft diventa attraverso un processo che da quello che Stein scrive soprattutto nel primo e nel secondo libro della Geschichte, attraverso un processo in cui lo Stato si fa soggetto di un processo storico che permette al sociale di svilupparsi così. E questo è un problema abbastanza complesso che io qui posso soltanto accennare per spingere casomai la ricerca in questo senso, per cui poi il concetto di società, che è tutto giocato a partire dal concetto di Volkswirtschaft, è un concetto storicamente determinato che però caratterizza da questo momento in poi il rapporto tra società e Stato, che intanto è antagonistico in quanto la società storicamente si è emancipata dallo Stato. Tanto è vero che la società precedente alla cosiddetta società economica, Stein la chiama addirittura società giuridica, in quanto i rapporti di dominio sono immediatamente rapporti sociali, non trapassano a livello di diritto statuale. Io naturalmente mi accorgo che le cose che dico sono estremamente contratte e andrebbero molto più esplicitate per essere forse completamente chiare, ma comunque non c'è molto tempo e quindi devo necessariamente essere rapido. Sull'ultimo punto, cioè sul problema del rapporto con Schopenhauer. Ecco, qui io direi che a mio avviso, questo quindi forse Pavanini può dare qualche dilucidazione approfondita, direi che questo rapporto è abbastanza estrinseco, diversamente dal rapporto con Hegel, e che di fatto a me non sembra, ecco, si possa, io ho anche il testo davanti che ha detto Pavanini, che si possa distinguere Verfassung da Verwaltung con volontà riferita a Verwaltung e rappresentazione riferita a Verfassung, perché qui dopo nelle pagine immediatamente dopo ci sta una metafora abbastanza interessante per rimanere all'interno delle metafore di cui si è parlato anche ieri, che è la circolazione sanguigna. Parla Stein della Verwaltung come la circolazione sanguigna, vuol dire che parte dal centro, va alla periferia, prende dalla periferia e riporta al centro, precostituendo, credo che questa interpretazione è stata data da Pankoke in un lavoro ultimo su Stein, una sorta di visione lumaniana della semplificazione della complessità. Quindi direi che il problema della Wille der Staat sta negli organi che sono appunto di cui Stein parla prima, che sono appunto il capo dello Stato, il potere legislativo, che è la Vollziehendegewalt, che sono la tripartizione attraverso cui dalla Verfassung ritorna poi nella società questo sangue, per così dire, ordinato. Quindi io rimediterei un attimo su questa concezione di Verwaltung nella Verwaltungslehre o nella. E poi volevo dire, dato che Beneduce chiedeva quali modelli, per quello che conosco io, la cosa che dice Vito Cusumano a proposito dell'atomismo e quindi del rapporto tra Kant, Fichte e Smith è testualmente, credo, ripreso proprio da Robert von Mohl nella Geschichte und Literatur der Staatswissenschaft, in cui lui si esprime proprio negli stessi termini, usando anche la parola atomismo. Questa come indicazione forse testuale deve essere utile. Certo. Molte grazie. Herr Sattler. Io vorrei fare una cosa a Tomasi prima. L'argomento sulle corti amministrative dal 72 è un po' diverso, perché da quell'anno era chiaro che nel nuovo BGB, nel codice civile, ci sarà una azione del bürger contro lo Stato a causa di Amtspflichtverletzungen nell'aspetto di diritto, allora non era più necessario tutta una corte amministrativa, credevano a quel tempo, credevano che con quella azione di specie di diritto, Amtsgerichtsverletzung, si possa risolvere i problemi più gravi. Allora questo si deve inserire nell'argomento del Neisser sulla corte. Sulle corte. Dal tuo punto di vista, la questione di contenzioso amministrativo non era più attuale. Credevano che era già risolto il problema. Ma un'altra cosa, se parliamo del self-government, di quella fissazione del Gneist, dobbiamo prendere in avviso le ricerche del Hacek, perché lui era come Brunialti, uno storico del local government. Gli inglesi non parlano mai del self-government, non ne sanno la parola neanche. E Hacek ha già mostrato che mentre il Gneist ha dipinto il suo quadro monumentale del local self-government, gli inglesi hanno riformato e centralizzato l'amministrazione in una maniera molto critica. È una idea medievale romantica del Gneist, è una idea conservatore, polemica in quei tempi dove l'argomento del Tocqueville, che la democrazia, il movimento democratico venisse dappertutto, era un argomento che Gneist conosceva. Io vedo tutta la fantasia amministrativa del Gneist come strumentata contro quel movimento democratico. C'è un articolo sul Tocqueville di Gneist molto interessante nella Selbstverwaltung. Lì si può sentire che lui cerca le istituzioni per bloccare quel movimento democratico in Germania. Io vorrei che si vedesse in quella prospettiva le fantasie del signor Gneist. Poi Beneduce mi interessa molto. Io credo che la mutualità di un seminario come questo sarà ben compresa se io adesso comincio a studiare italiani, che è come Orlandi e Santi Romano, perché mi sembrano attori molto più felici di trattare con questi problemi. Io come professore di legge amministrativa e di legge costituzionale in Germania ho un problema molto grave, bisogna che lo racconto. I studenti mi chiedono: ma cosa fai? Mi danno del tu, come da voi adesso, no, forse noi, i miei colleghi, ma a me me lo danno. E mi chiedono: ma cosa fai? Tu mi insegni gli strumenti del wilhelminismo e del fascismo. Fa deutsches Verwaltungsrecht, deutsches Verfassungsrecht. Ma cosa vuoi? Ma cosa è il problema? Cosa vuoi dire di positivo? Allora io credo che gli studi del più avanti si deve assolutamente trovare del positivo, del repubblicano, del liberale nella tradizione del Rechtsstaat, dello Stato di diritto. È necessario, perché altrimenti perdiamo l'interesse totale dei giovani in queste istituzioni. Mi sembra perciò io sono molto interessato nei studi tuoi, e mi sembra col Stolais, io a Francoforte faccio cose simili, non è che è soltanto una storia antiquariata, antiquare che facciamo, ma è essenziale, dobbiamo cercare di individuare, di fissare le tradizioni positive nello Reichstag, perché altrimenti quell'argomento dello studente che ho citato è molto difficile a rispondere. Infine voglio dire una cosa. Lorenz von Stein in Germania si studiano adesso perché, come il Schnur dice, i metodi giuridici sono tecniche polemiche e ormai siamo in un campo di interesse dove il Lorenz von Stein è studiato non dai giuristi, perché i suoi nelle scienze politiche è studiato molto, e io credo che il tuo studio sia molto interessante anche in Germania, perché da noi l'idea che lui fosse hegeliano è un po' difficile, perché scrive la lingua hegeliana ma molto meno lucida, molto meno brillante che Hegel. Allora quella ricerca è molto importante. Corny. Io volevo fare un brevissimo intervento sulla relazione di Tommasi. Sì, ho ben capito. Non è una critica alla relazione, che è molto interessante, però sia dall'interpretazione che lui ci presentava del Big Night, sia anche, mi sembra, dalla ricostruzione poi che lui stesso faceva degli eventi prima e dopo la riforma delle amministrazioni locali, no? L'introduzione di Kreise, eccetera, Auschwitz, eccetera, mi sembra che mancasse un filo di continuità molto importante che dal Settecento porta, va in tutto l'Ottocento e soprattutto nell'ambito rurale, ancora una volta. Cioè, no, vorrei dire che queste forme di autogoverno, queste forme di presenza della società dal basso e anche di autoamministrazione della società dal basso non si erano interrotte nell'Ottocento, come mi sembra invece, se non ho capito male, ripeto, che un po' emergesse dalla ricostruzione di Tommasi. Non so in che misura lui la riflettesse soltanto questa visione un po' tecnica di Gneist, oppure se in realtà era una tua interpretazione personale, ma credo che soprattutto per i distretti rurali si debba fortemente sottolineare il fatto che i proprietari latifondisti, nobili o non nobili che fossero, hanno continuato a detenere per tutto il Settecento e anche nel corso dell'Ottocento, in simbiosi, non dico non conflittuale, certamente conflittuale, con lo Stato, per esempio attraverso l'importantissima figura del Landrat, delle capacità di autoamministrazione, di autogoverno e anche di pressione dal basso verso l'alto, che rendono un po' più variegato il quadro che tu presentavi e che soprattutto spiegano poi questa soluzione che Gneist dà, che è appunto una soluzione conservatrice, che è, da quello che ho potuto capire, una formalizzazione di una realtà che da molto tempo, da due secoli almeno, lo Stato assoluto aveva accettato e anzi, per esempio, Federico II aveva fortemente sviluppato, dando grande rilievo ai Landrat e dando nuova vita ai Kreistag che Federico Guglielmo I, Federico I e in parte il grande elettore avevano in ogni modo tentato di sminuire e di ridurre. Grazie. Meriggi. Una richiesta di esplicitazione essenzialmente più avanti su un punto della sua relazione. Vale a dire la prerogativa legge del monarchico che hai trattato e dando la definizione che in sostanza si viene conformando una visione che vede nel re o comunque nell'istituto monarchico il cuore dell'organismo, pare che tu abbia detto così. Ecco, io sono molto interessato a questo tema perché facendo studi di storia amministrativa è una curia che si scontra sempre, per dire negli stati parlamentari, ministeriali, insomma col Parlamento e il Ministero non si riesce più a spiegare in realtà in cosa si attribuisce questa prerogativa legge. In genere la si identifica nell'amministrazione della guerra oppure negli affari esteri, però ogni volta che si cerca poi di definire esattamente in che consiste, ci si accorge che viene sempre data per scontata ma indimostrabile in sostanza. Ecco, proprio sulla base della definizione che hai dato, io mi chiedo se in un certo senso non si possa pensare che la prerogativa regia sia in un certo così come istituto traente, in fondo una finzione giuridica in mano all'amministrazione. Ok. Sordi. Sì, io voglio dire due cose, cioè una relativa al centro mare e una sulla linea di luce. Sulle domande, così semplicemente vedo un collegamento, cioè tra la formulazione di questo articolo 182 della Costituzione, appunto 48-49, e poi la legge poi citata anche da Beneduce italiana, che nel 65 abolisce come contesto amministrativo e stabilisce, diciamo, quello che in Italia non si chiamava Justizstaat, ma si chiamava semplicemente il sistema di giurisdizione unica. Ecco, in Italia le fonti, diciamo, almeno ideologiche la legge di giurisdizione unica abolisce il contenzioso, senza poi entrare nei problemi applicativi che poi portano anche alle ragioni che costituiscono la quarta sezione, si facevano risalire in genere a certe posizioni del movimento liberale, cioè sono sia a livello teorico, per esempio gli scritti di De Broglie contro il sistema del contenzioso amministrativo francese, sia le critiche di Tocqueville, per esempio al sistema che questi amministrativi francesi, ma che erano come meno, stavano sistemando sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia in particolare sull'esperienza della Costituzione belga di giurisdizione unica. Ecco, invece nella vicenda prussiana sembra che il referente sia una vicenda cioè proprio esclusivamente germanica, cioè un modello di giurisprudenza risalente. Ecco, volevo sapere un po' se conta anche questo filone liberale, nel caso fosse rilevante potrebbe spiegare anche la non applicazione successivamente col Parlamento del 48 del modello di giurisdizione ordinaria in Germania. Ecco, per quanto riguarda invece il problema di Beneduce, Beneduce accennava a Silvio Spaventa, al problema come mai Silvio Spaventa in un certo senso avesse scisso, no, il problema del decentramento della giustizia amministrativa. Ma senz'altro non l'hai detto per motivi di tempo, dico, ma la frazione che Spaventa dà del decentramento proposto da Kneist è molto rigida, molto rigorosa. C'è un bel articolo di Romanelli, per il storico, che a questo proposito, ma Spaventa ha capito benissimo che cosa intende Kneist per decentramento, cioè che cosa è il decentramento nel modello inglese, sì, ma nel modello inglese è interpretato da Kneist. E il collegamento, diciamo, tra funzionario onorario e gentry, Spaventa l'ha molto chiaro, e il proprio rifiuto di questo modello è proprio sul superamento sociale di una classe come la gente. Cioè la gente non esiste più in Inghilterra, ma molto meno esiste in Italia. Certo. Non è un modello amministrativo proponibile per un tipo di Stato che si muove verso uno sviluppo industriale di tipo crescente. Questo direi, siccome si rischia spesso di fare confusione sul senso del Barton, sul government, sul decentramento, in realtà ci sono linee diverse, cioè per esempio un decentramento di Iacini non è, che tra l'altro viene citato da Romano, nel 1897, e non è la stessa cosa di quello di Kneist, che non a caso viene proprio criticato da questo romano con motivazione analoga in parte di Spaventa. Grazie. Pombeni, professor Pombeni, che saluto e presento a tutti, il professore di storia contemporanea a Sassari. Allora, come io non sono storia dell'amministrazione. A voce alta non sentiamo, eh? Vieni più avanti. Purtroppo maledetta questa è un budello, insomma. Come io non sono uno storico dell'amministrazione, che prima chi giustamente diceva che i soldi per imparare, però eppure anche per potenziare delle questioni che secondo me sono altrettanto importanti. su questa questione del modello inglese che è veramente centrale. Allora, la questione del modello inglese, secondo me, i teorici, che noi diciamo sempre come se i teorici avessero sempre ragione, no? Il modello che fanno i teorici è il modello giusto. In realtà ha la sua base una questione, che è la stessa storia inglese, che non è superabile, che non viene affrontata perché non può essere superata. Ed è la questione che negli anni che vanno in Inghilterra, per grosso modo tra il 1830 e il 1870-75, i sistemi di governo locale sono dei sistemi avendo incrociato che impediscono la decisione. La riforma attraverso cui si supera questo, senza cancellare il modello locale, è la nascita del partito politico moderno. Non nel senso, guardate bene, non nel senso ideologico che questo ha in Europa, no? Ma nel senso di macchina organizzativa che questo ha, viene ad avere nell'esperienza che Chamberlain dà a Birmingham. Infatti, i nemici di Chamberlain accusano Chamberlain di aver fondato un caucus, ma non per fargli un complimento, ma perché il caucus è il termine americano con cui si indicava il meccanismo attraverso cui veniva corrotta l'elezione. Caucus è un insulto, si dice, tu hai fondato la mafia Birmingham, no? Allora, e Chamberlain si difende da questa accusa con un ragionamento molto interessante. Cioè dice, noi vogliamo fare le riforme a Birmingham, e sapete che l'attività di Chamberlain come sindaco principalmente ruota attorno a due cose, l'introduzione del gas e dell'acqua. Noi vogliamo fare le riforme con un sistema governativo, con un sistema elettorale che dà sul voto plurimo, un'altra cosa che di solito viene posta a latte delle divisioni, quindi si sorvola. Un sistema di voto plurimo e quindi di enorme dispersione dei voti, noi abbiamo un sistema di rappresentanza in cui ci sono rappresentati troppi interessi e troppe cose e non si decide un accidente. L'unico sistema è quello che qualcuno si organizzi per conquistare la maggioranza. E naturalmente gli oppositori di Chamberlain, non solo gli oppositori di Chamberlain, ma anche gli oppositori liberali di Chamberlain diranno: questa è la morte della democrazia. La democrazia è che tutti abbiano voce, la morte della democrazia è questo sistema che viene proposto qui per cui la minoranza governa, no, non la maggioranza governa, la minoranza governa mantenendo tutti i voti. Questo è il meccanismo centrale della riforma costituzionale inglese, che è quella che consente l'autogoverno, che consente la rappresentanza, cioè che consente alcuni meccanismi di rappresentanza locale. Per esempio la riforma scolastica del 1870 si basa su questo identico sistema. I consigli di circoscrizione sono dei consigli altamente politicizzati, non rappresentano la società civile intesa nel senso romantico di una società civile che così si autogestisce monariamente eccetera eccetera, rappresentano dei conflitti durissimi che sono la conquista dei non conformists, cioè sono la conquista della parte. Su questo confronto, ecco perché secondo me questo è interessante. Questo è interessante perché questo è il confronto che grande parte della, tra virgolette, scienza politica europea rifiuta, cioè l'ingerenza del partito dell'amministrazione. Ma c'è un discorso sul quale secondo me varrebbe la pena di fare chiarezza. Cioè questo discorso, come è possibile che tutta questa ideologia che continuamente dice i partiti in amministrazione, orrore, in realtà si richiama il modello inglese che è il modello dell'amministrazione in mano ai partiti. No. Perché qui c'è un secondo passaggio fondamentale che è questa questione del principio monarchico, che è un'altra questione divertente. Se c'è un paese dove il principio monarchico non esiste, è l'Inghilterra. Guardate, uno storico assolutamente tradizionalista come Trevelyan ha scritto che se non ci fosse stata la regina Vittoria, che era una buona donna, dopo quello che aveva fatto Giorgio III, in Inghilterra la Repubblica era praticamente garantita, no? Senza contare, adesso al di là di questa cosa, senza contare che la legittimazione dinastica degli Anglo è una legittimazione dinastica, scarsissima, una dinastia straniera, imposta la rivoluzione, eccetera, eccetera. Invece gli europei continuano a dire, in Inghilterra si va, gli europei sono presi in piccante, come ci ricordava Benuccio, continuano a dire, in Inghilterra si sta bene perché lì c'è il principio monarchico e il re se vuole scioglie il Parlamento, il re che è di sopra delle guardie. Vedo che è stato uno degli insertori di questo mito della Costituzione inglese, vedo tutti i soggetti degli insertori di questa Costituzione, di questo mito della Costituzione inglese, di questo volume che ho italiano. Lui stesso ha smentito questa ipotesi nella preparazione francese al suo, all'edizione di questo testo, in polemica con Prévost Parodard, che nella France Nouvelle aveva proposto anche lui di nuovo questo, questo mito, bisogna fare come in Inghilterra dove il re scioglie. Cioè, ma il re non ha nessun potere di scioglimento. Il re non scioglie nulla. Il re registra, no? Ha una funzione giuridica. Accanto a questo però, sarebbe altrettanto interessante vedere, perché già ci dice, vabbè, sì, in Inghilterra è così, in Germania invece era diversamente. Allora io qui chiedo, se non sia da rivedere anche all'interno della storia tedesca questo mito del principio monarchico. Perché in effetti, cioè per fare una battuta, se il principio monarchico fosse davvero esistito, in Prussia avrebbe vinto Manteuffel, che non Birman. Manteuffel voleva farla finita con la rivoluzione. Mentre invece, soltanto attraverso la manipolazione birmanchiana, che di fatto rifiuta di farla finita con la rivoluzione, si riesce a mantenere, non secondo me il monarchico sì, perché il monarchico avrebbe significato una cosa parzialmente diversa, ma una forma rivista e corretta di principio monarchico. Grazie. No, peccato perché sul principio monarchico abbiamo discusso appunto quando ieri un po', no? E effettivamente, almeno nella sua formulazione teorica, si presenta come un po' più complesso che non semplicemente la presenza del re, no? E quindi questo forse spiega per la Germania alcune cose. Insomma. Mazzolini? No, volevo fare solo una brevissima osservazione alla domanda della Valera più avanti circa l'uso del termine Selbstzweck, pur non potendo dare la data di chi l'abbia usato per dire che l'osservazione è questa: i biologi del primo 800 tedesco, alcuni biologi del primo 800 tedesco lo utilizzano continuamente come un termine definitorio del concetto di organismo. L'autore che essi hanno presente è Kant, in particolare Kant della critica del giudizio, la seconda parte, se non sbaglio, i paragrafi 64-65, dove vi è una importantissima critica da parte di Kant del concetto di della metafora, scusate se pronuncio l'elemento, ma della metafora dell'orologio uguale corpo organico. Lui non usa il termine di organismo, cioè di corpo organico, e critica questa metafora proprio introducendo anche il concetto di Selbstzweck come elemento fondamentale dei corpi organici. E lo fa perché? Perché lui ha presente, soprattutto in studi di un grandissimo anatomo che voi non potete conoscere, che si chiamava Blumenbach, che aveva scritto sulla Bildungskraft, diciamo tu lo conoscerai per via di Goethe. Tutti conosciamo Blumenbach. Non lo so, tutti lo conosciamo. Chi non conosce Blumenbach? Io. Comunque, ed è importantissimo perché era sulle questioni. Blumenbach a sua volta lo aveva introdotto, certo, il concetto di Bildungskraft, poi utilizzato appunto anche da Kant, in ambito embrionologico, per dirimere alcune questioni tra teorie embriologiche allora prevalenti di conformismo oppure appunto sviluppo. E quindi credo che uno degli autori comunque principali sia Kant. Grazie. Ci sono ancora interventi su queste relazioni. Io vorrei fare un brevissimo rilievo riprendendo una osservazione che mi è molto piaciuta di Beneduce, ma poi anche una che ha fatto di sfuggita la Gherardi e in conclusione quindi in certo senso proponendo a Fioravanti anche però appunto un dubbio. La osservazione di Beneduce è quella in cui parlava dell'amministrazione come di un territorio ancora da annettere da parte di diversi saperi, no? Quello dell'osservazione della Gherardi era quella che tutto sommato, così però in modo, rifatto in modo molto impulsivo e rapido, ma oggi pomeriggio forse sapevo di più, cioè negava che fosse solo il diritto momento di neutralizzazione dei conflitti, no? Ma che questo fosse in realtà un compito che si arrogavano tutte le diverse scienze sociali di formazione, La critica, se mi è consentito, ma non è una critica, insomma, a Fioravanti, è appunto il rischio di ipostatizzare solo nel diritto questa funzione qui durante, e dopo allora diventa effettivamente un problema di continuità proprio che non si risolve, mentre la mia impressione, per quello che io sto studiando adesso, è che questo sia un problema fondamentale davvero e anche materiale, direi, di tutta la storia costituzionale, diciamo, borghese, cioè quello dell'importanza che le scienze sociali specialistiche, tra cui il diritto preminente, ma le altre che via via se ne distaccano e rispetto ad esso acquistano la propria autonomia, queste scienze speciali effettivamente, credo, svolgono questo ruolo più potente di neutralizzazione, di entpolitisierung, di appeasement, insomma, che secondo me costituisce la premessa proprio indispensabile per poter passare dalla fase, diciamo così, liberale nel senso così borghese, anche se vogliamo elitario del termine, alla fase invece liberale, questa volta tra virgolette, di massa, che sarà quella propria dello Stato sociale o forse del non Stato, del post Stato novecentesco, democratico, ecco, per così dire, ecco, lo Stato democratico, che è evidentemente una contraddizione in termini. E che... Dunque, allora adesso, se non ci sono altri, io direi che riprendono a rispondono, insomma, o preferite fare una pausa e avere le risposte dei relatori dopo questa breve interruzione di un'ora che faremo? Subito, allora, per favore. Perfetto, allora direi forse nello stesso ordine oppure nell'ordine inverso, come preferite, insomma. Maurizio, ti prego. Sì, c'è molta carne al fuoco, insomma, quindi molta se ne è già bruciata, forse. Quindi quello che riuscirò a connettere lo dirò, insomma. Prima rispondo ai quesiti, ai parecchi quesiti posti dal professor Schnur, che pone tre problemi, mi pare. Il primo è quello della Erledigung, dell'ipotesi scienza dell'amministrazione sostenuta da Lorenz von Steiner e non solo da lui. Io sono d'accordo su questo contenuto polemico della juristische Methode. Io l'avevo chiamato in altro modo, avevo detto che si trattava di un concetto di tipo difensivo rispetto a nuove proposte e a nuove realtà che in qualche modo rispetto alle quali in qualche modo i giuristi cercano di porre questa Frontstellung, questa dimensione. Ecco, però rimane il problema del contenuto di questa operazione, il contenuto anche proprio storico-politico di questa operazione, cioè che cosa si difende con questa Frontstellung. Questo è il problema. Io affannosamente cerco di definire questo, no? E avrei individuato questa categoria dell'autolegittimazione, cioè della capacità dello Stato di autolegittimarsi, no? Del self-spec, che i giuristi difendono. Cioè ciò che vogliono evitare è che attraverso la pluralizzazione degli scopi sociali si disperda questa dimensione del self-spec, no? Cioè, no, quindi non solo di mantenere una legittimazione più forte, ma di mantenere la legittimazione, l'unica legittimazione che essi ritengono possibile per lo Stato contemporaneo. Da qui anche la rigidità della Frontstellung, da qui anche la rigidità e quindi anche una situazione che si viene a creare di tensione e di possibili anche esiti autoritari. Ecco, qui non sto a dire dove sia l'autoritario fra l'un fronte e l'altro, però si crea una situazione di estrema tensione e di rigidità. Ecco, questa è la prima osservazione. La seconda osservazione, passiamo a Otto Mayer, credo sia fondamentale la sua esperienza come avvocato e come studioso di diritto civile francese. Del resto, lo ricordava il professor Schnur, quasi tutti questi giuristi partono dal diritto civile, dal commerciale, addirittura nel caso di Landesrecht, nel caso di Lavant. Io mi ricordo un passo di Lavant nel quale dice che era stato a lezione da Bluntschli e si è annoiato in un modo tremendo. Aveva detto: non mi occuperò mai di diritto pubblico, perché se questo è il diritto pubblico è una roba completamente... Come gli allievi di questa è solo una curiosità. Ecco, però credo che, ancora su Ottmayer, credo sia fondamentale proprio la trattazione a questo punto, anche dal punto di vista storiografico, della cosa che ci manca dei singoli istituti giuridici, cioè come funzionano in effetti i meccanismi, questo a me interessa molto, e in particolare proprio la questione ricordata dei beni pubblici, questo è veramente fondamentale, che lui riprende dalla dottrina francese, che però in parte cambia. È vero che in Germania non ha successo questo, è vero che non ha successo in Germania, però poi viene ripresa, esistono anche scritti di amministrativisti degli anni 30, 40, addirittura quasi contemporanei, che rilanciano la dottrina dei beni pubblici, ma soprattutto per me è di grandissimo rilievo che questa dottrina abbia un successo enorme in Italia. Ecco, questo è fondamentale per me e su questo dovremmo meditare, perché i tre maggiori amministrativisti italiani, cioè Santi Romano, Oreste Ranelletti e Cammeo, muovono tutti da questo problema del demanio, da questo problema della distinzione tra demanio e patrimonio, perché dietro c'è questo grande problema rispettivamente del potere discrezionale della pubblica amministrazione e invece dell'applicabilità degli atti di del diritto privato agli atti della stessa pubblica amministrazione. Chiudo su questo, naturalmente si potrebbe dire molto altro. Poi ancora a Cardini vorrei dire... Orlando non era compreso in questo itinerario di sintesi che ho tracciato. Io sono, diciamo, sufficientemente d'accordo con questo, cioè dovendo, diciamo, catalogare Orlando fra lo schieramento liberista e quello che si va formando in antitesi a questo, certamente lo collocherei nel primo schieramento. Su questo non ho dubbi, soprattutto presenti gli scritti giovanili di Orlando, dove si tratta il problema della questione sociale, veramente, insomma, in parte esorcizzandola, ecco, dicendo che è un problema di contingenza immediata, non è una dimensione futura con la quale dovremo fare i conti nell'ambito dello Stato moderno. Certamente Orlando è strutturalmente un anglofilo, come lo erano molti siciliani. Mosca parla delle due isole, delle sue due care isole, la Sicilia e l'Inghilterra. E lui che introduce alla scuola giuridica di Rexpert, sostanzialmente lui. Ma lui faceva, io credo, ora passiamo al dialogo. No, è l'unica eccezione consentita. Comunque faceva una grandissima distinzione tra, diciamo, la politica dello Stato sociale bismarchiano e i giuristi di quella età. Perché lui ricollegava quei giuristi alla linea che veniva dritta da Savi, dalla pandestistica, dalla scuola storica, e quindi la grande tradizione del diritto in genere, ottocentesco tedesco, che è cosa diversa da Bismarck. Questa è la posizione, credo, di Orlando. Poi ancora su Gherardi, ecco, io non tratto la questione veramente troppo grossa, posta da Raffaella Gherardi e da Pierangelo Schiera. Non la tratto perché è un punto troppo nodale, quindi non lo tratto proprio in quanto è troppo grosso. Credo che dovremmo fare un confronto, dico solo questo, tra i contenuti che si esprimono all'interno della specializzazione giuridica e il problema epistemologico della specializzazione. Cioè, in che modo questi giuristi sono consapevoli anche di questa parcellizzazione o in che modo avvertono la propria parcellizzazione come una ricomposizione della globalità? Questa è la domanda. Poi, infine, sulla questione posta da Gozzi, ecco, credo che questa differenza proprio fra Santi Romano e Ferrari sul decentramento sia un punto di vista ottimo per capire questo grande stato di frizione fra stato sociale e stato di diritto, se diamo il giusto valore a queste formule. In sintesi, lo sforzo di Santi Romano è quello di dire: il decentramento non è roba da giuristi, è cosa da politici. Ai giuristi interessa l'autarchia, il concetto di autarchia, cioè interessa il tipo di legame che quello che noi chiamiamo l'ente locale ha con lo Stato, nel quadro della teoria dei diritti pubblici soggettivi. Quindi è vero che è una complicazione dello Stato di diritto, ma è una complicazione funzionale alla rivalidazione della personalità giuridica dello Stato nel senso della tradizione ottocentesca. Quello che in sintesi poi dal punto di vista amministrativista romano nega è che possano esistere materie della pubblica amministrazione in senso locale, non esistono, e soprattutto non interessano ai giuristi. Questo deve essere ulteriormente complicato. Infine, Amerigi, in conclusione, il principio monarchico, accennava Piero Angeloschi, sono d'accordo, non si può ridurre ai poteri costituzionali del sovrano. È una grande fonte di ispirazione politica che riguarda tutto l'assetto del politico e dello Stato, al quale si rifanno continuamente tutte le forze politiche, determina livelli di coesione delle proposte costituzionali tra le forze politiche. È certamente un simbolo, io non direi finzione giuridica, vuol dire qualcosa per i giuristi, è un simbolo, ma è un simbolo che, come parecchi simboli, è produttivo politicamente, insomma. Se prendiamo la storia dello costituzionale materiale dello Statuto Albertino, è probabilmente noi avremmo molte sorprese non sul fatto che si è creato il regime parlamentare contro la lettera dello Statuto, ma nel fatto che il potere monarchico è rimasto contro la creazione del regime parlamentare. Molte grazie, quindi ora è tocca a Pavanini. Brevemente, anche perché parecchie sono delle indicazioni che secondo me sono estremamente utili, e avevo già anticipato che ovviamente è un'ipotesi quello che sto facendo, ma nessuno. Quindi ringrazio il professor Schnur per appunto questa precisazione relativa alla funzione polemica, ovviamente, che è della ricaduta che questo ha nell'immaginazione anche della figura di Stein. Anche se devo aggiungere che più che l'immaginazione, qui si trattava di vedere se aveva fondamento una lettura come per esempio quella che offre Angerman a proposito di Stein, dove si nota effettivamente, secondo Angerman, una frattura tra un primo Stein e un secondo Stein, laddove lui ritiene che mentre prima sia prevalente un concetto di interesse singolare, poi invece prevalente un concetto di interesse generale, prima appunto un'analisi della società legata a questo, poi invece una teorizzazione dell'amministrazione che muta il concetto di interesse, e quindi secondo Angerman è si conflittuale rispetto a una prima riflessione relativa alla società. E questo un po' era anche il motivo, insomma, del mio tentativo di lettura, anche per riallacciarmi a quello che diceva il professor De Santis, perché quello che io voglio vedere è se questa teorizzazione dell'autonomia dell'amministrazione sia effettivamente un tipo di ipotesi che si regge e sia condividibile rispetto a quella prima teorizzazione invece della dialettica della società civile, chiamiamola, della società, insomma. E in questo senso ancora aggiungo il rapporto alla tradizione hegeliana, come diceva il professor Rossier. Secondo me, nel momento in cui si legge un secondo Stein come teorizzatore dell'intervento attraverso l'amministrazione nella riforma sociale dello Stato nella società, è chiaro che siamo al di fuori della tradizione hegeliana, senz'altro al di fuori. Allora, o la riforma sociale è così una proposta che non riguarda l'impostazione teorica e l'analisi specifica di Stein, no, è qualcosa di un accomodamento, non so, qualche cosa che si può leggere soltanto per le determinazioni storiche, o invece questo è fondamentale, come cercavo di vedere io, ossia fa parte del suo impianto teorico, e allora è chiaro che dobbiamo allontanarci da una lettura così hegeliana della di Stein, che ha il suo fondamento senz'altro nell'analisi della società, ma però non trova scritto un significativo successivo. Io sono senz'altro d'accordo e mi sono spiegato probabilmente male, non sono stato chiaro quando parlavo di natura, intendevo seconda natura e mi riferivo alla società, senz'altro alla società, non allo Stato. Anche lo stesso quando parlavo di trapasso, naturalmente pensavo alla composizione, alla struttura del conflitto. Quello che io cercavo di rimarcare è che il principio della trapasso non può essere quello che muta la struttura della società. Ecco, questo volevo dire. Cioè, la trapasso esprime un principio, no, che è della società, ma però non tale da modificare la società stessa in senso unitario. E data che la superripartizione è che la società sia per natura conflittuale, una costituzione è inutile alla soluzione del conflitto, è un ideale astratto. E mentre invece la funzione della perpartum in questo senso poteva essere letta come incisiva, ossia il circolo di cui dicevo. Per l'influenza di Schopenhauer, anch'io, cioè, io l'ho aperta come ipotesi di lettura, in modo devo dire che l'ho trovata anche in un altro critico, per esempio in Hartmann, il quale nel suo testo su Rainer Begriff und Tätiges Leben, a proposito di Stein, lui riferisce un'influenza di concetti di Schopenhauer a Stein quando ravvisa il nesso tra il concetto di Kraft e Tat in Stein, ossia questa dimensione della forza, cioè il momento dell'autorità, il momento dell'azione, e questo collegabile poi con il concetto di amministrazione, secondo lui è un influsso della tradizione di Schopenhauer. Ora la cosa collegata, adesso, penso senz'altro che sia marginale, però bisogna vedere se è del tutto estrinseca. Penso poi senz'altro che sia un tradimento al limite della posizione di Schopenhauer, ma però che possa essere utile per dire come viene utilizzato, sfruttato, insomma, come vengono sfruttati certi concetti della riflessione filosofica ai fini, in questo caso, della affermazione di un supporto teorico consistente all'autonomia della Verwaltung e appunto questo nesso tra amministrazione e azione, cioè l'elemento attivo che c'è all'interno del concetto di amministrazione è senz'altro riferibile ad una lettura che Schopenhauer fa del mondo in genere, cioè la volontà compare ogni qualvolta c'è l'azione, insomma questo richiamo la volontà è senz'altro legato all'azione. Chiaro, è da approfondire, bisognerà appunto vedere se di mantenerlo naturalmente nei limiti che anche Stein stesso assegna a questo concetto. Ecco. Grazie. Tomasi? Prima di rispondere volevo fare una brevissima premessa per ciò che riguarda il Kneist storico della Costituzione inglese. Quei pochi riferimenti che si trovano sulla letteratura critica o storica, che in qualche modo parli veramente anche di Kneist, perché la bibliografia è praticamente inesistente, era dedicata espressamente a Kneist. In tutti questi testi si dice che tutto sommato Kneist scrive la storia costituzionale inglese avendo perlomeno un occhio puntato sempre sulla Prussia. Praticamente Kneist avrebbe adeguato, avrebbe in qualche modo arrangiato la storia costituzionale inglese avendo in mente dei problemi che erano quelli della Prussia. Io penso che una situazione come questa sia sicuramente attendibile, perché non c'è dubbio che molte delle cose che sono. D'altra parte io avrei dovuto fare, o meglio avrei dovuto fare, avevo già in programma di fare uno studio sulla Costituzione inglese e sull'opera di Kneist, apposta per stabilire dove e quali sono i punti in discussione. È un lavoro che già in partenza avevo demandato ad un secondo tempo, perché è un lavoro che implica parecchio tempo, implica forse degli anni per essere fatto scrupolosamente. Cioè non si tratta soltanto di leggere Hacek, come suggeriva il professor Zander, ma tutta una letteratura che è vastissima, che comprende l'opera di Gruet, che comprende l'opera di Randy Kirsch, che comprende tutte le pubblicazioni del volume dell'Ottocento scritte in Inghilterra su questo tema, più il primo di Hallam, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro vastissimo che ho pensato di fare in un secondo tempo. Da questo punto di vista ciò che ho detto io riguardo all'Inghilterra non era né più né meno che la esposizione del pensiero maestriano con tutti i suoi limiti e le sue, per così dire, ombre e i suoi punti di discussione. Volevo aggiungere un'altra cosa, che è già in qualche modo una risposta, in riferimento ad un'affermazione che faceva Benduce, riguardo proprio a come tradurre il termine self-government, self-verwaltung, che diceva Benduce, giustamente in Italia a un certo punto lo si traduce con decentramento amministrativo, che è la traduzione più corretta. Questo è vero, ma non lo è dal punto di vista di Gmeist, perché dal punto di vista di Gmeist, self-government o self-verwaltung vanno tradotte alla lettera, quindi autogoverno. In altre parole, in Inghilterra per Gmeist non c'è mai stato un potere centralizzato che poi si sia in qualche modo decentrato in un secondo tempo. Il local government non è altro che praticamente la storia di queste unità, di queste unità locali che sono i comuni, che sono le contee e così via, le quali da associazioni e circolamenti economiche quali erano all'origine sono cresciute una buona volta fino a diventare degli enti amministrativi. E non c'è praticamente questa frantumazione del potere centrale dello Stato che invece lascerebbe presupporre il termine decentramento. Per quanto riguarda il discorso che concerne la democratizzazione, di cui ancora una volta parlavi proprio tu, io sono d'accordo sul fatto che le proposte gnaistiane sono fatte, cioè in qualche modo abbiano di mira l'idea di impedire un processo di democratizzazione. Impedirlo perlomeno a che livello? A livello istituzionale, cioè nel fatto che siano i partiti politici un po' alla volta ad egemonizzare l'amministrazione e ad asservirla ai loro fini. Questo Gnaist dice chiaramente. Esiste un fine superiore ai partiti, superiore alle parti e quello dello Stato, e l'amministrazione deve esistere di questo fine, soltanto di questo. Quindi non deve succedere che il governo diventa semplicemente l'esecutivo, lo strumento di una volontà che è la volontà del Parlamento. Per cui quello è la volontà di parte. Questo lo dice chiaramente e quindi siamo d'accordo. Però un punto che mi preme sottolineare, che riguarda anche questo termine romanticismo di Gmeist, posso dire, mi pare che non sia corretto parlare di Gmeist romantico. Perché Gmeist dimostra chiaramente che aveva la piena consapevolezza di come il potere, di come praticamente le persone che in qualche modo occupano il potere, di come il diritto stesso evolva in rapporto ai diciamo in corrispondenza con i rapporti di proprietà e come praticamente i posti di governo non siano assolutamente da prendere secondo il concetto romantico di potere, non siano da intendersi come fondati in natura, ma siano posti che di volta in volta storicamente vengono occupati da coloro che detengono il potere economico, cioè le persone, le classi che hanno sul piano economico una posizione di preminenza. È un discorso che troviamo espresso anche Schmoller nello stesso periodo, allorché Schmoller risponde ad una critica di Price, con uno scritto famosissimo, che è Übereinige Grundfrage der Volkswirtschaft, laddove Schmoller dice la stessa cosa, dice, caro signor Price, lei ci dice che siamo dei, in qualche modo, filosocialisti, perché praticamente non rispettiamo, non abbiamo assolutamente l'idea di dividere questo potere di cui lei parla, che è un potere a maniera aristotelica, cioè praticamente che lascerebbe intendere che insomma le classi, i ceti sociali sono già in qualche modo costituiti ontologicamente, metafisicamente e non possono variare. Noi riteniamo che le classi sociali che di volta in volta vanno al potere sono quelle che sul piano economico hanno una posizione di preminenza. Quindi è semplicemente un avvicinamento storico che noi condividiamo con la nostra che non è né filosocialista e non è assolutamente in accordo con quello che dice Trasky. Questa posizione, che è la stessa di Gmeist, la troviamo espressa anche in Steinbeck, che pare che tutto sommato, almeno da quanto dice un giurista famoso come Gumplovich, la fonte di Gmeist per ciò che riguarda, diciamo, la sua concezione della società sia proprio Lorenz von Stein. Ecco, quindi non sono d'accordo sul fatto che si debba parlare proprio di romanticismo, che mi pare un po' troppo forte. Fermo restando che sono d'accordo su quello che dicevi per ciò che riguarda appunto l'antidemocratizzazione. Ora, venendo a Corny, io la ringrazio molto per le presentazioni che ha fatto e che tuttavia, ecco, se dovendo ti rispondere, mi pongono un problema non indifferente, perché tutto sommato, quando si parla di autoamministrazione all'epoca di Gmeist, si parla già di una struttura, potremmo dire, di diritto pubblico che agisce in termini di diritto pubblico. Questi adelige Gutsbezirke di cui tu facevi riferimento, è vero che tutto sommato questi nobili avevano ricevuto dal monarca in qualche modo l'incarico di amministrare per conto dello Stato, però all'interno dei rapporti giuridici erano di tipo patrimoniale, esclusivamente patrimoniale. In questo senso, ecco, dicevo, non si potrebbe, non mi pare che si debba parlare alla stessa maniera di auto-amministrazione nel senso gnaistiano per questo genere di entità, che tuttavia sappiamo esistevano. Ora, da questo punto di vista, quindi, rimane aperto il problema di come considerarli, perché non c'è dubbio che, questo però è una risposta che attualmente non, ti saprei dare. Ciò che dice Gnai, soprattutto, che concerne questa estinzione delle comunità rurali di cui dicevo prima, ma estinzione su di un piano, potremmo dire giuridico, diciamo sul piano, se vogliamo, dell'amministrazione di un diritto comune diffuso in quei contesti, sul piano dello ius comune, sarebbe dire che si estinguono, secondo Gnais, quelle comunità che poi verranno in qualche modo inglobate nella Flache Land, e quindi tutto sommato nell'ambito della provincia, che entrano esclusivamente sotto la giurisdizione provinciale, si estingue che cosa? La loro autonomia in campo giuridico in quanto creatrici ed amministratrici di un diritto locale che si danno di per se stessi. In questo senso, ecco, Gnais parla di estinzione, perché a quel punto, dice, con l'avvento di uno stato assoluto, noi cosa abbiamo? Che da un lato i tribunali locali vengono in qualche modo, perdono di significato, perché vengono occupati da giudici che non sono del luogo, che non amministrano, ma amministrano semplicemente in nome della monarchia. In secondo luogo, il diritto che viene un po' alla volta introdotto in queste sfere è un diritto elaborato dai giuristi, un diritto in qualche modo di scuola, che nasce nelle scuole di diritto, quindi è ispirato dal diritto romano, e non è quel diritto che invece si era sviluppato in quei contesti, non è lo ius comune germanico. Quindi praticamente c'è questa vicenda, c'è questo, se vogliamo, svuotamento di significato giuridico di questa entità. E per questa ragione Max dice appunto si estingue. Ora, infine, il discorso che faceva solo di che non riguarda Max, ma riguarda una fase anteriore, quella che dicevo io. Beh, io penso una cosa, non conosco la situazione italiana, quindi non ti potrei dare una risposta molto precisa, però se è vero che la letteratura a cui si fa riferimento in Italia nella seconda metà dell'Ottocento è quella di ispirazione francese, che è critica nei riguardi del Conte Napoleon e che in qualche modo propone una forma di giustizia, è anche vero che in Italia non mi risulta che non fosse nota l'esperienza prussiana a cui facevo riferimento io, che è un'esperienza che risale al Settecento. Quindi anteriore allo stesso Conte Napoleone. 5 mesi. Ecco, tutto sommato mi pare che ecco, questa esperienza di cui dicevo, che poi è limitata a una sola provincia, no, che dura soltanto. Un attimo, è nota, Minghetti, per esempio, nei partiti politici parla specificamente di questa cosa, cioè delle riforme amministrative prussiane, ma ancora partendo di Sapanca. A quale riforme? Signori, ci abbiamo un'urgenza qui, cioè è tardissimo. Io vi parlavo ancora prima, cioè all'epoca di scuola. E a questo proposito che dicevo, che parlavo esclusivamente di giustizia in questa esperienza particolare della nuova borsa orientale tra l'87 e l'1808. Questo esempio che dicevo, secondo me, ci porta a concludere che la Prussia sapesse già che cosa cos'era la giustizia, appunto che dopo il 50 non penserà assolutamente di ripetere questa strada, e quindi in qualche modo respingerà l'intento dei liberali sul tedeschi e infatti arriverà ai cristiani. Per questa ragione ecco, penso che sicuramente posso dire questo, che non esiste una letteratura sull'argomento in epoca prussiana, cioè in epoca, diciamo, in quell'epoca la letteratura che si riferiva in Italia secondo me è tutto. Grazie, adesso Beneduce. Sì, io per ora rinuncerei anche per il momento a fare una serie di considerazioni. Possiamo riprendere. No, possiamo riprendere nel pomeriggio. No, ma abbiamo questi 10 minuti, ce l'abbiamo. Allora partirei dalla fine, da queste questioni sul decentramento. Beh, intanto appunto io credo che c'è davvero, come diceva Gozzi, una differenza tra Ferraris e Romano a proposito del decentramento. Ferraris non a caso cita, tra l'altro cercando di rispondere anche rapidamente a quello che diceva Cardini all'inizio, oltre a Vito Cusumano, un altro di questi appunto personaggi estremamente attenti alla cultura tedesca, e tra l'altro un altro di questi personaggi che si muove, che va a Berlino, è appunto Ferraris, che nel 73 scrive sull'archivio giuridico un articolo sulle riforme amministrative in Prussia, secondo l'ordinamento dei circoli, che appunto erano le riforme amministrative del 72. E come dire, è estremamente pronta la recezione, la risposta. E Ferraris ricorda puntigliosamente nella prefazione alla teoria del decentramento amministrativo del 98 che nel frattempo, cioè dopo l'articolo di Santi Romano, era uscito un appunto il lavoro dello Hatschek sul Die Selbstverwaltung in politischer und juristischer Bedeutung di cui Santi Romano non poteva aver tenuto conto perché era uscito dopo, ma che appunto teneva a sottolineare Ferraris. In realtà questo articolo dello Hatschek riprendeva delle idee che già negli anni 70 Ferraris aveva detto a proposito del decentramento amministrativo, e ricordava appunto questo articolo del 73 sull'archivio giuridico, dove appunto sulle tracce degli scrittori tedeschi lui aveva già esposto queste idee che solo più tardi si erano diffuse in Italia. E c'è però un momento, un consenso di Ferraris tra Ferraris e Santi Romano sulla questa introduzione del concetto di autarchia rispetto al concetto di autonomia. Cioè si dice che il concetto di autonomia è un concetto generico che fino a quel momento era prevalso a proposito del decentramento degli enti locali. Si trattava ora di sostituirlo col concetto di autarchia, che rendeva meglio l'idea del decentramento, secondo, in senso moderno, per così dire. E quindi questo a proposito di Ferraris e Santi Romano. Sull'altra questione dell'amministrazione, come, per così dire, come problema teorico aperto, io certo che la risposta non può essere assolutamente data per ora, può essere soltanto suggerita una fonte che magari anche nel pomeriggio riprenderemo con calma dopo gli interventi della Gherardi, di Gozzi, eccetera. Cioè c'è questo articolo di Vacchelli sulla scienza dell'amministrazione come scienza autonoma, in cui lui si pone una serie di problemi. Dice all'inizio, dice, si tratta di vedere se davvero il fatto amministrativo ha una sua autonomia, se davvero esiste un punto di vista amministrativo diverso da quello giuridico, da quello politico, da quello sociologico, eccetera. Cioè se è venuto il momento di ritagliare una disciplina, una scienza specifica per l'amministrazione, e se resta un margine a fianco alle altre discipline. Se questo è possibile, e lui ritiene che questo sia possibile, è il caso di lavorare in questa direzione dell'amministrazione. E che però appunto è un'amministrazione che tra l'altro si differenzia dalla politica, perché la politica resta il luogo della mutevolezza, della variabilità, e laddove invece l'amministrazione è un fenomeno certo complesso, ma è un fenomeno anche che riflette, lui usa il termine di stabilità, di permanenza, riflette questo tipo di considerazione. Quindi questo, poi l'ultima considerazione assorbi, naturalmente poi ho dimenticato qualcuno, è giusto quello che lui dice, ma appunto io tendevo a sottolineare come nell'introduzione di NICE in Italia si verifica tra l'altro questa operazione di taglio di una idea che era quella del decentramento secondo NICE come fenomeno interno, come elemento costitutivo dello Stato di diritto, e che viene invece messa ai margini messa in alternativa e contrapposta a quella di giustizia. Quindi sono d'accordo con te. Va bene.